Mi siamo pronti per il soundcheck di oggi. Buon pomeriggio da Gigi Telesforo qui da Radio 24, esattamente oggi ubicati nel Groove Master Studio, dove da questa mattina abbiamo ascoltato decine di nuove produzioni discografiche e alcune ristampe che vi vogliamo proporre. E il primo artista del quale vi vorrei parlare, del quale vi vorrei far ascoltare qualcosa di speciale, è quello che io considero il profeta, se non l'inventore della pop music. Ecco, se Michael Jackson è The King of Pop, sicuramente Elvis Presley è l'inventore di questo genere. Sì, ricordato come The King of Rock and Roll, Elvis Presley in carriera, una carriera che è durata ben 22 anni, vorrei ricordare che è nato nel 1935 e a 42 anni ha perso la vita anche in circostanze misteriose. In 22 anni di carriera e di discografia questo signore ha venduto oltre 1 miliardo di copie. Ancora oggi le ristampe, le pubblicazioni continuano a vendere per i seguaci di quello che è stato considerato da intere generazioni non solo un grande artista, un grande musicista, un formidabile personaggio, un attore più o meno discutibile, ma da molti era considerato una sorta di semidio, un idolo, un'icona. Elvis Presley ha cantato di tutto, non solo rock and roll, ha iniziato col rock and roll, si presentò quando non aveva ancora 18 anni in un piccolo studio di registrazione dove con pochi dollari potevi realizzare il tuo sogno, quello di registrare qualcosa per poi farlo ascoltare ai parenti. E il leader di questa casa discografica, Sam Phillips, facendo degli ascolti nel suo studio, verificò personalmente che la voce di questo giovane americano aveva qualcosa di particolare. Gli mise a fianco un paio di musicisti e lì iniziò la carriera di Elvis Presley. Elvis Presley, l'abbiamo detto, ha venduto milioni di copie, 1 miliardo di copie vendute, tantissimi concerti, ma non si è mai esibito al di fuori dei confini degli Stati Uniti, soltanto 6 concerti in Canada. Ha cantato di tutto, dicevamo, dal rock and roll, ma anche country, country western, gospel, spiritual, melodico, per poi arrivare anche a un genere venato di soul music. E infatti fra il 72 e il 1975, proprio negli studi della Stax Record, famosa per aver proposto alcuni dei più importanti protagonisti della scena black, soul e R&B, realizza una serie di produzioni, di registrazioni che qui vengono riproposte in questo album della Stax Record distribuito dalla Sony Music, con tanto di pre-rolling, ovvero quella fase che precede la registrazione. Infatti si sente Elvis Presley che parla con i suoi musicisti, che discute con l'ingegnere del suono, quindi una vera prelibatezza per tutti gli appassionati di musica, che possono riascoltare la voce di Elvis Presley durante la registrazione, ma anche prima e dopo. Il brano che ho scelto per voi si intitola Find Out What's Happening, Elvis Presley, Elvis the Pelvis Presley, al soundcheck di Radio 24. Elvis the Pelvis, protagonista del soundcheck di Radio 24, e ancora oggi Elvis Presley continua a essere seguito da fans che lo considerano una sorta di semidio, lo adorano perché pensano che Elvis avesse, probabilmente ancora oggi, perché per alcuni forse Elvis non è morto, caratteristiche taumaturgiche e soprannaturali. Infatti per i suoi fan più devoti e irriducibili, il cantante, è sempre stato considerato una sorta di vero e proprio genio, non solo della musica, ma un talento divino, una specie di semidio, del quale ancora oggi si collezionano le reliquie, tipo fotografie tenute nel portafoglio, oppure registrazioni amatoriali, bootleg e vari gadget che continuano a essere prodotti e venduti in giro per il mondo. Elvis the Pelvis al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Check, check, il suono della musica. Soundcheck. Il suono della musica. Dice spesso dei grandi musicisti che hanno il sound nelle dita, e questo è il caso del maestro John Scofield, che ha un sound inconfondibile. Non solo il suo strumento, potrebbe anche utilizzare una chitarra da 4 soldi con un amplificatore scassato senza effetti. Il sound di John Scofield, come dicevo, sta proprio nel suo fraseggio, nel modo di intendere la musica. Qui lo abbiamo ascoltato in Don't Want to Be Lonely, dall'ultima recentissima produzione discografica con una band chiamata Uber Jam. Questo è il secondo capitolo con il quale John Scofield, portando con sé alcuni fra i migliori talenti contemporanei, riscopre il gusto del funk e dell'R&B. Un disco sicuramente da acquistare, che troverete nei migliori negozi di dischi, o se non avrete il tempo potrete scaricarlo sicuramente da iTunes. Ma vi ricordo di scaricare, di fare il download sempre di musica originale, non scaricate musica abusivamente, perché anche qui da noi in Italia è considerato un reato. Dal sound di John Scofield, al soundcheck di Radio 24, arriva Jeff Lorber. Ecco, gli amici che ricordano le vicende della Fusion sanno benissimo di chi sto parlando. Tastierista, pianista, compositore, ha segnato pagine importanti di quel genere che è nato intorno all'inizio degli anni 80, opera di musicisti di jazz californiani, che misero insieme le strutture jazzistiche, il gusto dell'improvvisazione con il groove tipico dell'R&B e un suono vagamente rock. La musica, la solarità di Jeff Lorber torna con questo album intitolato Hacienda, e qui Jeff Lorber riunisce in studio di registrazione a Los Angeles musicisti di prima fascia, di primo calibro, top di gamma oserei dire, come il batterista Vinnie Colaiuta, Eric Marienthal al sax tenore, Paul Jackson alla chitarra e il bassista Jimmy Haslip, già leader di Yellow Jackets. Arriva Jeff Lorber al soundcheck di Radio 24 con un brano intitolato Raptor. Soundcheck, il suono della musica. Siete di nuovo in contatto con il soundcheck di Radio 24. Oggi nuove produzioni discografiche, nuove pubblicazioni come quella proposta da questa ragazzina molto carina. Beh, ragazzina, ha 30 anni, ma è molto fine nei lineamenti, con un po' di rossetto sulle labbra, biondina. Appare qui in questa fotografia molto delicata, anche se poi nella vita ha una grandissima energia. E vi sto parlando di questa cantante che si chiama Kat Edmondson. Ultimo album per lei, Way Down Low. Questa ragazza ha anche lei una storia alle spalle, perché come molti artisti emergenti, lì nella sua città Houston in Texas partecipa alle audizioni di American Idol, una sorta di super X Factor americano, dove passa le prime giornate di audizioni, ma poi a un certo punto, con la sua vocina delicata, anche particolarmente intonata e non con un vocione muscolare come quelli che vanno di moda oggi in giro per il mondo, viene giudicata non adatta alla carriera di pop star, non tanto per la vocalità quanto per il suo aspetto fisico così delicato, da uno dei giudici, il signor Randy Jackson. Pensate un po', questo signore poteva distruggere la carriera di questa ragazza, che invece ha tenuto duro, ha iniziato a esibirsi nei club della sua città, poi viene coinvolta dal countryman, folk singer, rock singer e bluesman Lyle Lovett nella sua large band, e ha iniziato così a girare gli Stati Uniti come corista di Lyle Lovett, con il quale non si sa se abbia poi intrapreso anche una storia d'amore, visto che Lyle Lovett è famoso per essere anche un po' un Latin lover. Vorrei ricordare che questo signore ha sposato Julia Roberts, che poi lo ha lasciato probabilmente perché il signor Lovett non era contento di avere già una donna così bella al suo fianco e continuava in tournée a divertirsi. Kat Edmondson, dopo questa nota gossip sulle vicende di Lyle Lovett, arriva con Way Down Low, e il brano la vede protagonista proprio con il suo amato, fra virgolette, Lyle Lovett. Il brano si intitola Long Way Home. Kat Edmondson al soundcheck di Radio 24. Well, I'll be winking to the wise owl who always knew, and babbling with the brook about my love for you. And I take the long way home tonight. Chiudiamo il soundcheck di oggi parlandovi di John Stevens, che poi è il vero nome di John Legend, oggi star di prima grandezza, ma quando ha iniziato a fare musica, quando aveva 16 anni, sicuramente John Legend non pensava che sarebbe diventato una grande star del pop e dell'R&B. Aveva l'idea di poter diventare un bravo pianista e un bravo compositore, infatti lo ha fatto. All'inizio della carriera ha scritto canzoni per Alicia Keys, per Janet Jackson, e lì che ha iniziato a farsi conoscere, a muovere i primi passi nella discografia importante, finché un'altra star chiamata Kanye West lo scopre, lo coinvolge in un concerto, e dopo una strepitosa esibizione dal vivo a New York, ecco che parte la carriera di John Legend. 4 album al suo attivo, arriva il quinto proprio in questi giorni, si intitola Made to Love, è già primo nelle classifiche di tutto il mondo, e vi faccio ascoltare John Legend da questa nuovissima produzione discografica per Sony Music, con un brano dal titolo We Loved It, dove incontra la voce di Seal. Due voci favolosi in un colpo solo per chiudere in bellezza il soundcheck di oggi. Buona giornata a tutti da GG Telesforo. Soundcheck. Il suono della musica.